Maestro, sono pronto anch'io, chissà se si sente. Vediamo un po'. Si sente? Prova, sì. Sa. Si sente, caro maestro. Buonasera, caro maestro. Come già successo in passato, siamo in un avamposto. Non siamo in loco, non siamo in sede, siamo altrove. Stiamo andando a esplorare. Perché, maestro, mi hai portato a esplorare? Io riesco solo a dire c'è la neve ma la finiremo. Eccoci. Ok, riproviamo l'attacco. Che ne dici di questa trasmissione? E buonasera quindi, caro maestro. Buonasera. Come buonasera. È già successo in passato, caro maestro, trasmettiamo da un avamposto dove non nevica, mi sembra. No, c'è un sole che spacca le pietre. Ma cosa accade in questo posto d'avamposto? Perché ci stiamo andando? Dove stiamo andando? E dove stiamo andando anche, maestro? Stiamo andando incontro alle parole. Non pensavo aver preso il costume, altrimenti. Potevi dirmelo. Quali parole? A parole importanti, parole profonde. Speriamo che siano parole non di... circostanza. Di circostanza, non di commiato. Ma parole di benvenuto. Parole decisive, già da ora potrei forse dire. Sei d'accordo con me? Sono d'accordo. Parliamo ancora delle parole che usiamo, ma facciamolo dopo un pezzo che stiamo per mandare, che ne dici? Mandiamolo. The night. Maestro, in questo avamposto dentro al quale ci troviamo, verso le parole... Andando incontro alle parole. Sì, qui dove siamo, io ti vorrei chiedere, caro maestro, cosa sta per accadere a questa trasmissione, perché abbiamo annunciato qualche cosa. Abbiamo annunciato, cioè stiamo per annunciare qualche cosa, anzi, ho già varcato il tempo. Stiamo per annunciare che cosa, maestro? Stiamo per annunciare la tua... La mia dipartita. Ecco, lo sapevo che infatti... Dal mondo terreno. Perché anche tu, come già Mary Cristo, dove andate tutti quanti? Cioè, tu dove vai? In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Incredibile, maestro, spero che ci renderai conto di questo tuo viaggio, al quale ti vorrei già chiedere: ti stai approcciando in solitaria? Mi sto approcciando in solitaria, ma vi sento tutti vicino. Io sicuramente, anche chi ci ascolta lo è. Dunque, cosa accadrà allora a questa trasmissione in attesa che tu arriverai alla supernova? Oh. Esploderà. Sì? Come no. Una qualsiasi non ero altra. Pronto a questo, non me l'aspettavo, non era previsto. Che cambia in... No, non esploderà. Non esploderà. Affatto, ma continuerà imploderà. A crescere. Continuerà a crescere, tuttavia dilaterà la sua frequenza di emissione, vero? Sì, è una cosa che stiamo già provando a fare da quando ci ha raggiunto il maestro Ricky Gianco, ma appunto puntiamo sempre più in alto. Sì, sì, non hai capito, mi sa, che cosa ho detto. Forse no. Assolutamente no, perché ho detto che stiamo per dilatare la frequenza con la quale mandiamo in onda la trasmissione. Cioè, che vuol dire, tipo, anzi, una volta ogni due settimane andremo in onda una volta. Okay, stiamo dilatando la frequenza. Certo, la frequenza di trasmissione, molto bene, che apprendimento straordinario, caro maestro, grazie, un saluto a Ricky Gianco. Dicevamo, invece, a proposito di più vili e basse frequenze, che le nostre, cioè quelle di trasmissione di questa trasmissione, si dilateranno, nel senso, inizieremo ad andare in onda una volta al mese. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Sì, basatevi su quello, quindi, e ascoltateci pure tuttavia una volta al mese, perché questa trasmissione non andrà in pensione. Mentre il maestro si volgerà verso la supernova e ci porterà grandi verità, noi continueremo ad andare in onda. Questa trasmissione sarà infatti seguita dalla prossima, sempre in onda, tra 4 settimane. Fra 4 settimane, quindi adesso in tempo terrestre è cambiato il dosaggio, è cambiata la somministrazione, il farmaco resta lo stesso. Sì, ma anche perché forse siete già, insomma, un pochino più avvezzi a questi nuovi livelli ai quali abbiamo provato a condurvi grazie ai maestri, soprattutto al maestro Ottani. Vi stiamo traghettando. Sì, siete morti. E fidatevi comunque di noi e soprattutto di lui, molto molto bene. Allora, non abbiamo gli epitomi, abbiamo da parlare di altre cose, di una in particolare ti voglio adesso parlare. Vado a prendere un articolo e ti voglio chiedere un commento su quello che ti sto per leggere, caro maestro. Pronto. C'è una base, sì, che non ci abbiamo, facciamo finta di averci. Sì, che cazzo ho messo il telefono? Non è il mio. Era una buona idea. E rieccoci. Quindi grazie, caro maestro, per la vitamina C di cui mi hai fornito. In effetti non sto un granché. Però sì. Sì, quella non era vitamina C. Che cazzo mi hai dato, maestro? Era arancione. Che cos'era? La nostra astronavicella è partita, sta andando in un luogo che tutti ben conoscono. Dove sta andando? Dove ti porto oggi, caro maestro? Se il luogo che tutti bene conoscono sarà a fanculo, no? Sopra Empoli come Monculi. E invece no, ti ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro? Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica. Chissà quante avventure avresti da raccontare se te ne chiedessimo conto. Non lo faremo, ti chiederemo invece un commento sui grandi misteri del triangolo delle Bermuda a partire sempre dalle nostre autorevolissime fonti. Sei pronto? Pronto. Via. Il triangolo delle Bermuda è un'enorme area dell'Oceano Atlantico che copre una superficie di circa 1.100.000 km quadrati, di forma per l'appunto triangolare, con i tre vertici che corrispondono all'arcipelago delle Bermude, nord, all'isola di Porto Rico, sud, e alla penisola della Florida, ovest. Ecco, in questa zona si trova anche la fossa di Puerto Rico, uno dei canyon più profondi dell'oceano che raggiunge i 9.000 metri di profondità. A partire dal 1800, in questo tratto di oceano vi è stato un impressionante susseguirsi di eventi inspiegabili, di navi scomparse e poi misteriosamente ricomparse senza equipaggio, di aerei spariti da ogni radar e di persone di cui si sono persi le tracce. Ma facciamo alcuni esempi. Anno 1840. La nave mercantile Rosalie fu ritrovata nel triangolo delle Bermuda senza equipaggio ma in perfetto ordine. Nella stiva non mancava nulla, le scialuppe erano al loro posto e l'unico essere vivente ancora presente era un canarino nella sua gabbia. Andiamo avanti. Vuoi già dire qualcosa, maestro? Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando su la possibilità dei mondi paralleli. Teniamola presente questa possibilità anche per il prosieguo di questo racconto. Eravamo al 1840, facciamo un passo in avanti di 41 anni. Andiamo al 1881, quando la nave americana Ellen Austin incrocia nel triangolo delle Bermude un'altra nave che misteriosamente è anch'essa senza equipaggio. Alcuni uomini della Ellen Austin si calano sulla nave fantasma per portarla in porto. Dopo una tempesta, tuttavia, anche gli uomini che erano saliti a bordo della barca spariscono. Altri volontari ripetono l'operazione e ancora una volta si ripete l'episodio. Si verifica una tempesta e anche questi uomini scompaiono. Tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà. Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice. Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi, ma non esattamente nella superficie del triangolo delle Bermuda, ma che all'interno del triangolo delle Bermuda gli oggetti possano essere influenzati da questa assottigliamento delle leggi della fisica. Straordinario, maestro, è come giocare a poker a Telesina, dove ogni volta scopriamo una carta e una verità. Andiamo quindi avanti per anni in questa esplorazione del triangolo delle Bermuda al tuo fianco. Eravamo al 1881, ancora 40 anni avanti, 1925. Oh maestro, quante omissioni, ho scelto soltanto alcune. 1925, la nave da carico SS Cotopaxi aveva 32 uomini a bordo e trasportava carbone. Anche questa nave, attraversando il triangolo delle Bermuda, sparì senza lasciare traccia. Prima di sparire, lanciò una richiesta di soccorso. Maestro, ancora io. 1945. Una squadra di 5 aerei da caccia Avenger inviano a Fort Lauderdale un messaggio comunicando che gli strumenti di bordo sono impazziti. Dalla torre di controllo la visibilità e le condizioni risultano perfette, ma il messaggio del capitano Stevers recita: non sappiamo più dove è l'ovest, è tutto così strano, l'oceano non è più come dovrebbe essere, voliamo su acqua bianca. dopo questo messaggio, la squadra di aerei sparì nel nulla. Venne mandato un aereo di soccorso, ma sparì anche quello. In totale 6 aerei, 10 uomini della squadriglia e 13 membri dell'idrovolante di soccorso. Ancora avanti, maestro. 1963, non abbiate paura, la nave da cargo Marine Sulfur Queen, un grosso cargo americano con 40 uomini a bordo, sparì senza lasciare traccia mentre attraversava il triangolo delle Bermuda. Della nave venne ritrovato solo un salvagente. Ancora una, maestro, gli anni 60 sempre, 1965, l'aereo C-119 dell'Air Force scompare senza apparenti ragioni dopo che il comandante lancia un messaggio incomprensibile. Roger, Miami Overseas, 6567. Ancora più strano è il fatto che il messaggio, piuttosto che venire captato dalla torre di controllo di riferimento di Miami, viene ricevuto da New York, a 1300 miglia di distanza. Maestro, nessuno sa che cosa c'è nel triangolo delle Bermuda, nessuno tranne forse te. Ed è forse proprio alla persona più indicata che siamo oggi a chiedere. Dici davvero, ci hai contornato, insomma, questa verità, affondiamo adesso. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta. Incredibile, maestro. Io avrei cose da chiedere, ma di fronte a questo ammutolisco. E allora ammutolite con me, ascoltiamoci una canzone. Grazie, maestro. Grazie. Time. something in the sky, sky, waiting there for me. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! No, caro maestro, non sovrascrivo i dati, piuttosto ti riporto all'attenzione di un argomento che avevamo sfiorato all'inizio di questa emissione radiofonica e che adesso la scienza riporta dritto davanti ai nostri occhi. Parliamo delle sfere di Dyson. Allora, secondo una ricerca, almeno 7 stelle della nostra galassia emettono una radiazione infrarossa che potrebbe essere compatibile con la presenza delle mega strutture di origine aliene dette sfere di Dyson, la cui esistenza è stata teorizzata fin dagli anni 60. Allora, esiste una scala per giudicare c'è Mario che mi annuisce, ma mi annuisce perché ti sto anticipando. No, perché mi immaginavo una scala, no, che tipo di scala ora sto io? Non una Stairway to Heaven, ma una scala intesa come la scala Mercalli. Sì, sì, in, sì, in sì, questo sì, senso sì. Qui. Per stabilire il grado di avanzamento tecnologico di una civiltà intelligente, che prima è più o meno al nostro livello e poi arriva a essere una civiltà per forza di cose stellare. E quindi si parla di uno sfruttamento parziale del proprio pianeta, fino a uno sfruttamento totale del proprio pianeta, passando per uno sfruttamento parziale dell'energia emessa dalla stella del sistema solare a cui si appartiene, arrivando fino a uno sfruttamento pressoché totale di questa energia. E di qui la sfera di Dyson. È proprio questo di cui stiamo infatti parlando, sfruttare l'energia delle stelle, in effetti. Sì. Sì, scusa, prego. No, era per dire semplicemente che quindi la sfera di Dyson, per quella che è questa scala e quindi anche il nostro punto di vista, è uno stadio piuttosto avanzato, nel senso che siamo già arrivati, quindi questa ipotetica civiltà intelligente è già arrivata al punto da riuscire, attraverso la sua tecnologia, a sfruttare tutta l'energia emessa dalla stella alla quale fa riferimento. C'è da dire che il nostro grado di intelligenza come specie umana forse ci permette adesso di riconoscere almeno queste emissioni di energia come tali, come fonte di un artificio alieno teso a approfittare dell'energia stellare. Forse. Allora, vediamo, maestro, andiamo a fondo su questa questione. A suggerire la possibilità di cui stiamo parlando è una ricerca pubblicata su Monthly Notice of the Royal Astronomical Society da un team di studiosi guidato da Mattias Suazo dell'Università Svedese di Uppsala. Chissà come ho pronunciato tutto quello che ho appena detto. Lo studio è stato realizzato nell'ambito di, anche qua, Hephaistos, andiamo sul greco, un progetto che coinvolge esperti di vari paesi di tutto il mondo, fra cui la Svezia, il Regno Unito, l'India e gli Stati Uniti, nella ricerca di tracce di tecnologia extraterrestre, invece che di ipotetici segnali o messaggi che gli alieni potrebbero inviare al nostro pianeta. Un esempio sono appunto quelle di cui stiamo parlando, le sfere di Dyson, cioè ipotetiche gigantesche strutture che gli extraterrestri potrebbero realizzare intorno alle stelle per succhiarne letteralmente l'energia. La loro esistenza è stata teorizzata in origine dal fisico britannico Freeman Dyson in una pubblicazione su Science nel 1960 e poi ripubblicata in vari racconti fantascientifici, però abbiamo capito insomma qual è l'origine. Secondo gli esperti, qualora le sfere di Dyson esistessero davvero, le riconosceremmo grazie alla notevole quantità di radiazione infrarossa emessa a causa del loro surriscaldamento. E infatti, partendo da questo presupposto, i ricercatori hanno usato un particolare programma informatico per individuare simili picchi di emissione tra le 5 milioni di stelle presenti nella nostra galassia, osservate con diversi strumenti come il satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea e il telescopio spaziale WISE della NASA. Dai dati è emerso che 7 stelle nane di classe M, più piccole e più deboli del nostro Sole, che potrebbero essere compatibili con la presenza di sfere di Dyson. Gli studiosi riconoscono questo e non hanno un'altra spiegazione al momento sul perché ci siano queste missioni, ma è l'ipotesi fatta fin dagli anni 60 da Freeman Dyson, insomma, qua si riaffaccia con una certa prepotenza. Non è un'ipotesi, ma una solida certezza. Ormai già solida, eh? Solida. Anche perché sennò si spaccherebbe in un secondo la sfera di Dyson intorno a una stella. Solidissima certezza. Maestro, ma per costruirla, cioè, a me mi sembra incredibile che si possa alzare una gru. Già, cioè, una cosa così alta, che cazzo si fa? Pensa a te fare una sfera di Dyson. No, ma non è tanto costruire una, cioè, alzare una gru quanto... Sì, per dire, no? Cioè, siamo all'interno di un modo di pensare anche la tecnologia che non ci appartiene. È troppo avanti, non possiamo che fantasticare appunto su questo tipo di tecnologie. Magari le missioni non vengono nemmeno da un oggetto solido e fisico come possiamo immaginarcelo noi. Sarebbe bello dare un'occhiata. Tu ormai ti stai dirigendo verso la supernova, forse le stelle M, queste piccoline non le riesco a intercettare in questo momento, purtroppo, ma penso che sarebbe importante capire una cosa, che l'energia più importante da sfruttare è quella che viene da un altro tipo di stelle, quelle che brillano all'interno di noi, cari i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Grazie maestro, grazie davvero per questa verità. Mi permetto di abbassarti un attimo, mi permetto di riportarti un attimo qua giù per chiederti soltanto, ma cioè, secondo te, come specie umana, se riusciremo a perdurare, fra quanto tempo credibilmente saremo anche noi all'altezza di produrre delle sfere di Dyson per sfruttare l'energia delle almeno più piccole stelle della nostra galassia? Dovremmo riuscire ad arrivare ad altri 1000 anni di esistenza, ma questo lo vedo estremamente improbabile. Non scommetteresti sull'umanità no. E un millennio di esistenza? No. Nemmeno per qualcuno di noi? Sì, ma probabilmente il giro sarà ricominciato. E così ci lasci con questa amarezza? Con questa. Più che amarezza la chiamerei speranza. Ecco. Non sembrava, ma fidiamoci di te. Maestro, non so se gli piace. Sì. Maestro, cosa ci hai appena dimostrato? L'energia degli armonici. La bandiera dell'Ungheria. No, maestro, gentilmente non si distragga con l'ipnotista Carogno. Stia con noi quanti ipnotisti, quanti nomi. Da buon ipnotista, giustamente mi ha ipnotizzato. Cosa potevo farci? Come senti maestro, c'è qua nel sottofondo un'armonia. Ci è venuto a trovare infatti in studio il dottor Bleso. Bentornato dottore da Saturnia, bentornato. Buonasera. Armonie saturnine. Come vanno le cose dottor Bleso? Molto di fretta, infatti temo di dovervi lasciare perché la mia aeronave sta per partire. L'aeronave dei sogni. Non ci domandiamo per dove, perché sappiamo che sarà in ogni caso un posto meraviglioso. E non chiederemo nemmeno se è un aereo o una nave. Quanto tempo ha per noi, dottor Bleso? Il tempo si misura in canzoni dalle mie parti. Ah, beh, certo, è il paese dei musici. Quindi direi due canzoni, una breve, una un po' meno breve, una malinconica e una angosciosa, terribilmente angosciosa. Quale sentiremo prima oppure facciamo scegliere al maestro? Maestro non vuole scegliere, io partirei con pavido quella, il maestro. Con quella breve. Una canzone onomatopeica che non ho finito di scrivere. E questa è Battiti. Ho dato tutto, tutto hai fatto tranne che prendere. Ho speso tutto, tutto hai fatto tranne che spendere. Un altro treno da perdere, ah. Solo un minuto, non trovo più per cosa arrendermi, non trovo più per cosa arrendermi, non trovo più per cosa arrendermi, ah. Grazie al dottor Bleso, accidenti. Non finita? Lo sembrava invece, diciamola pur tutta. Ecco, è molto corta, non finita, sì, vabbè, da, diciamo, gli ho dato questo senso di conclusione, si dice. Inconclutesi, ma quella sì. Roba lì, sì. Ma non è il paese dei musici, ma non... l'importante è suonare, no? Ma sì. Mentre, invece, la prossima canzone... Non fidatevi della forma. Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare. Dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi, c'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito, e che sia forse proprio quello il problema, questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi. Oggi vinco ancora l'Enalotto, i sogni sono grandi così, certo poi non ne ricordo uno e mi tocca farli uscire da qui. Dice che la mente non riposa, io la vedo fermamente convinta che ci sia nota in ogni posa. Si riposa l'occhio all'ombra di un sì. Ancora pare calmo il mare, dietro il fare e il dire noterò parole. Il sole sta scendendo lontano. Sembra di nuotare verso me. solo quando dormo poco, eppure resto fermo un po' qui. Aspetto e fingo che sia tutto un gioco, intanto fuori dal mio petto questo ritmo, stai attento se lo vedi. Sveglia, se la lascia la speranza resta sola. Mia madre si è convinta di sì. Sono il solo a cui rivolge la parola. Cerchiamo di essere completi essendo soli per metà. Se mi cerchi, io noi. Qui dove è calmo il mare, sì, tra il fare e il dire affogherò parole. Il sole sta scendendo lontano. Sembra di nuotare verso me. Quiz per tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Se avete colto la citazione musicale che si fa alla fine, scriveteci, mandateci un vostro contatto e noi non vi risponderemo. Molto bene, grazie mille al dottor Bleso, che gioia ogni volta ci regali, dottor Bleso. È veramente stato un piacere anche questa breve volta. Dottor Bleso, stai veramente ormai scalzando David Bowie e Alan Sorrenti nella classifica delle nostre ugole preferite, grazie. Perfetto. Davvero. Ci regali, dottor Bleso, prima di lasciarci, certo, a cappella un jingle per l'anagrammista. A cappella, sì, questa volta. Sì, uno solo, okay. uno solo. L'anagrammista Ciripeo. Oh, sono riuscito ad andare fuori tempo anche a cappella, incredibile. E vi vorrei lasciare con un'altra frase molto bella, secondo me, che è questa, ed è: tu cerchi nel grano, io cerco di smettere. Ciao a tutti. Bene, caro maestro, e allora questo è il momento in cui ti puppi una delle domande dei nostri cari ascoltatori. Andiamo a sentire che cosa ti hanno chiesto. Maestro, domande profonde per... risposte profonde per domande profondissime. È tutto quello che ci aspettiamo, ma non è ciò che garantiamo. No, mai fatto questo. Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian. Allora, una fotografia Kirlian, un fantasma nella fotografia Kirlian, sì? Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. E questo è quanto, cara Ianara, non so se ti rendi conto con chi hai a che fare, eh? Molto bene, grazie maestro. Allora, è il momento di un'altra domanda, eh? Sei pronto? Pronto. Sì, allora, non devi essere solo pronto per questa domanda, devi essere prontissimo, perché maestro, io non credo che una domanda di tale impegno richiesto a chi risponde sia mai stata proferita, posta fino a questo momento. Sì, devi essere tutto orecchi, eh? Tutto orecchi. Tutto orecchi. Maestro, quando è che si è reso conto di essere diventato il maestro? Molto bene, maestro. Una risposta importante ci vuole qua. Ovviamente mi è stato appioppato questo titolo e io l'ho accettato di buon grado. Me ne sono reso conto intorno ai 2 anni di età. Sì. Allora, quando ti era già stato appioppato il titolo, non ancora? Non ancora, ma ero certo che ogni qualvolta veniva proferita quella parola fosse rivolta a me. E intendo la parola maestro. Immagino le elementari, che casino. Un grande casino. E così sia. Molto bene, adesso è il momento di un pezzaccio, musica. Ascoltandola sempre pregevole vostra trasmissione radiofonica, fra le tante gioiose cose, anche quella che all'illustre signor Mario non è piaciuto il nostro anagramma relativo alla nota Sol. Ne prendiamo atto, non siamo qui per piacere. Accogliamo la nostra lezione universale di esistenza come tutte le altre che abbiamo ricevuto, ovvero con umiltà e sincera gratitudine. Tuttavia ci occorre anche prendere atto di un guanto di sfida verso di noi lanciato. Si poteva far meglio quale affronto? Ebbene, in questa partita volevamo offrire coppe e abbiamo ricevuto spade. Risponderemo a bastoni, ma poiché di spade è l'offesa, ci metteremo anche un poco di lama. Intanto passeremo al tu, poiché dover incrociare l'armi giustifica una maggiore confidenza informale. E allora, Mario, così screanzatamente non solo mi sfidi, ma ti autoproclami vincitore. e non bastasse ciò, addirittura mi attribuisci l'onta della sconfitta senza neanche prima sincerarti che sulle mie candide vesti di innocente sbocci il sanguigno fiore d'una ferita. E dire che ti precedeva fama di provetto spadaccino, la vera onta è l'essere trascinato in tanta rusticaneria. Ma poiché di schiaffi da lasciare impuniti solo uno si può prendere, e arrivando a questo schiaffo, peraltro, su una mano tesa per offrire, sono obbligato a rispondere. Ti piace, maestro? Risponderò ai tuoi anagrammi di nota sol con la mia nota preferita, che per inciso è anche la risposta alla domanda che mi pose il maestro Tani sul presente come assenza di tempo, sì. Nell'ordine in cui me li hai scagliati contro, cioè parla dei miei anagrammi, no? Lo stano, sì, ma tosto ne sarai pentito. La stono, sì, la stoni, vedremo perché. Sol l'onta, sì, già io presto anche tu. Salto, no, sì, saltiamo invece. Nato sol, sì, ma non è nato solo, è nato sole ed è il mio. Alto son, sì, passabile se quel son nasconde un suonare e non un più banale sono. Sto al no, sì, l'hai reso chiaro, al sì ci sto io, questo è il tuo affronto migliore, ma una negazione è un po' triste per la tua nota d'elezione. Non credi? Se non l'avessi ancora reso chiaro, la mia nota è il sì, che è un agrammato in ti sona? L'unico in forma di domanda fra quelli delle mie sette note. La risposta, in fondo, a saperla leggere, c'era già. E a te, Mario, ora che hai giocato con i miei scarti, cosa ti resta? Fa ridere, maestro, sì. Fa anche... come si dice, rabbrividire un po'. Quanta sprovveduta sicumera e quale improvvida fretta nel giudicare come approssimativo l'anagramma del quale sono più orgoglioso. Quale insulto al sale, nobile elemento noto a chiunque dovrebbe essere il sale della terra, perno fondamentale della chimica, svilito al rango di banale condimento da tavola. Eppure quanta arte ci infuse il Cellini, lo stesso del Perseo, per farne solo un degno contenitore nella sua saliera. E d'altronde ben lo sapeva, da Firenze, che chi è senza sale è detto come il vostro pane sapo, che chi è senza sale è detto come il vostro pane sciapo, sciocco. Il sale. Per i cristiani, simbolo stesso del Redentore, per i pagani, irrinunciabile sacrificio. Antiche civiltà di tutto il mondo lo elevarono a rango divino. Preziosissimo per conservare, vero tesoro nelle curtis medievali, simbolo d'ospitalità e condivisione, fu anche usato come moneta. Sposo dell'acqua e della terra, il sale sta sommato nelle più insondabili profondità degli oceani, dove ogni pioggia del cielo lo trasporta con ogni fiume che l'ha lavato via dalla dura scorza del pianeta. L'acqua, se salata, evapora a temperatura maggiore e, curiosità, congela a temperatura inferiore. Sapete se quella del vostro lago subglaciale antartico è acqua dolce? Ti ricordi, maestro? Se molto salata, non è così singolare che a meno 3 gradi resti liquida, pressione o meno. Altra curiosità. L'acqua è una sostanza davvero strana, più densa da liquida che solidificata, ghiacciando espelle il sale. E dove va dunque il sale? A fondo, più a fondo, come tu ci insegni, Mario. È così che fanno i poeti. Ma tu, tanto a fondo non sei andato a volermi sfidare sulla nota sol, per una nota che, apprendo dal maestro, sa di api e pungiglioni, i tuoi 7 versicoli sono ben misero sciame, sufficienti tuttavia a sentirne il veleno. Rispondo allora al tuo acido provocare con inverso caustico di sdoro, a neutralizzare un acido con una base. Sai cosa si genera così? Ormai l'avrai capito. E dunque ai tuoi 7 senza impegno ne aggiungo un altro, con licenza d'apostrofo che comunque mantiene, seppur nascosto nel senal, il mio adorato sale. Sal tono? Ancora una domanda, stavolta per te, a cui intuisco già una risposta negativa dal tuo salto? No. Ma il tono, forse doveva essere tonalità, è quello che attribuivo alla nota do, dove dare tono da tono era infatti il mio anagramma per quella nota. Voleva essere ben più di un atteggiarsi, come hai ancora superficialmente interpretato. era semmai tonificare con il don maestoso dell'aquila inarrestabile nel suo volo verso sud, Antartide, quel tono che tanto preferisci al nobile ronzare delle api melliflue individuato nel sol. Quel titano del maestro Tani, coi suoi appunti notati, mi suggerisce un ulteriore senso. Da che infatti neanche io comprendevo fino in fondo quanta importanza avesse il sale, adesso lo noto bene e forse lo noterai anche tu. Sarà che il maestro si diletta negli anagrammi, giochi di senso e di parole? Perché tra le risa deve aver intuito qualcosa, intendendo una battuta di spirito da parte mia. Il sale infatti pare avere una qualche non trascurabile attinenza con lo spirito. Anch'io esploro le fonti e no, non è una questione da poco. E dunque, Mario, della tua folta schiera di anagrammi per la nota sol, ne scegli una da contrapporre al mio sal noto? Oppure mi sfidi coi numeri? Li affronto anche tutti insieme, a me ne basta uno. Quale anagramma di nota sol ti pare più adeguato al tono di queste lezioni universali di esistenza? Quale ti sembra raccogliere maggiore senso, non consenso? Quale offre maggiori spunti, suggestioni, percorsi, anche riferimento alla puntata stessa, durante la quale la nota è stata, in qualche modo, suonata? E mi perdoni il maestro se oso, inesperto e in difesa, un tocco di contrappunto. Lo perdoni, signore. Quale tra i tuoi e il mio anagramma è, in una parola, più interessante? In conclusione, un invito a considerare i miei anagrammi più come possibili chiavi di lettura, anche profonde, goliardiche o semplicemente inaspettate degli argomenti trattati durante le vostre lezioni, meno come divertissement frivoli gettati là distrattamente. Tutto corrisponde, anche il vostro corrispondente da Pozzo Trigiano, Bari. Con immutata stima, ex papalmente vostro, Giulio Ciripeo VII. Prego maestro, c'è anche un post scriptum. PS. Andiamo? PS. PS. Noto con una qualche amarezza che nei miei confronti generalmente ci si ferma alla forma, ma fermarsi alla forma è anagramma di formarsi alla ferma. E a questo militaresco marciare per non marciare oppongo che talvolta è assai opportuno marciare. Marcire, come l'ho sbagliata. Ero emozionato. E a questo militaresco marciare per non marcire oppongo che talvolta è assai opportuno marcire. Avrò l'ardire di contraddire il maestro, la marcescenza è tutt'altro che assenza di vita. Vinta la repulsione per l'insalubre processo di putrefazione, vi si può ben scorgere la vitalità attiva e rigeneratrice. Il vecchio marinaio non ruppe forse la maledizione dell'albatros riconoscendo la bellezza della vita proprio nel verminare dei serpenti marini? Fui Papa Antico. Dei tempi in cui pontificare significava anche e soprattutto costruire ponti, annuisci maestro, infatti è altro. Ponti come quelli che ha gettato verso Londra, che ho gettato verso Londra e verso Arda. La terra ha un diverso stato dell'immaginazione, precisa, e prima ancora verso un possibile orizzonte nella ricerca. In quel ponte, che qualcuno ha chiamato poesia, c'era un verso mancante, o anche più d'uno. Quel vuoto è stato ignorato, degradato a negligente incompiuto. Invece, una più dolce sfida, per animi duellanti, poteva trovarsi in quell'apertura un invito al gioco, in cooperazione e non in competizione. Trascurato, invece, oggetto di malcelato scherno. Confido che altre, più attente sensibilità, lo colgano. Eppure, quanti elementi affascinanti si nascondevano dentro il nome di Caterina da Londra. Ci ho trovato anche la Gualcopide Lince e una rondine d'arca a cui trovare un destino. Dopo tanti rettili mi parevano buone offerte, vuoti a perdere per il vostro carnevale degli animali sulla vostra navicella radiofonica, ovvio di tanto in tanto mi son trovato, spirto ad aleggiare, invocato e intenzionato ad aiutare e ad aggiungere, mai a togliere o a negare. Sono passati camaleonti, gravidi di verità, ma privi di orecchie per ascoltare, che per errore abbiano passato alle vostre ottundimento? Io spero di aver dimostrato con questa lunga epistola almeno quanto sia attento ascoltatore delle vostre lezioni e quanto sia indefesso teoreta. A carico di quest'ultima asserzione lancio un nuovo seme, consapevole come ben sa la natura che non tutti quelli gettati germoglieranno. Il vostro camaleontomante Unculunculu ha recentemente parlato di tardigradi e indirizzato verso la criptozoologia. Ebbene, prima ancora di microorganismi apolidi dell'universo, tardigradi erano detti quei pianeti il cui moto apparente, osservato dai terrestri, risulta lento. Tardigrado, ovvero dal lento incedere, come quello di Giove, Saturno, Nettuno, Urano e Plutone. Forse sono in errore, eppure ascoltando il maestro parlare del periodico avvicinamento delle navi aliene colonizzatrici al nostro azzurro pianeta, non ho potuto fare a meno di notare una qualche convergenza. Tardigrada è quindi anche una forma di comunicazione che procede piano, come la scrittura alla quale è solito ricorrere il sottoscritto. Quale astronomo vorrebbe ignorare la gravità di Plutone? Quale astrologo ignorerebbe l'autorità di Giove o le dure lezioni di Saturno? Chi, parlando d'acqua, non rivolgerebbe un pensiero a Nettuno, parlando della volta celeste, non interpellerebbe Urano? Inviti, naturalmente, mai in posizioni d'attenzione. Ci avrò messo qualche errore nella lettura, qualche incespicatura, ma ho provato tantissime emozioni, caro maestro, leggendo questa lettera di Ciripeo. Fondissima, importante su vari punti. Allora mi propongo di commentarla in almeno 3 o 4 punti differenti, ma non in questa puntata, perché mi ripropongo di leggerla con più attenzione per poter dare un resoconto anche più dettagliato e una risposta più dettagliata a tutto quello che ho sentito. Sicuramente la parte finale sulla tardigraderia è importante. È tutta molto profonda e decisamente andrebbe riletta e rianalizzata. Chi ci ascolta la può senz'altro riascoltare. Io, che sono preso direttamente in causa da questa lettera, ho pensato a un paio di risposte anche possibili nel merito della lettera mentre la leggevo, anche perché l'ippogrifo ce l'ha recentemente portata, ma l'abbiamo aperta insomma e sciolta insieme. Ecco, caro maestro, io devo dire che di fronte a questo le risposte che pensavo via via venivano a mancare. Mi mancava la terra sotto i piedi e, giunto in conclusione, ammutolisco, abbasso la testa, allargo le braccia e dico in latino, per omaggiare il nostro ex papa, che ubi maior minor cessat. Sì. Non rispondo dunque agli anagrammi. No. Ubi maior. Ubi maior. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. E a risentirci fra un mese su queste frequenze. Viva Radio Wombat, viva il maestro Ottani. Viva o muoia. Meglio comunque se viva, secondo me. Spectacular. God, what is that there? It's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it.